Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Primo giorno del mese di dicembre, questo è giovedì 1 dicembre appunto 2011, buonasera da Blu Radio Veneto, ma soprattutto buonasera da Agostino Splaore e dal mio caro fedele compagno. Sì, puoi anche annunciare. Sì. Se puoi. Maurizio, buonasera, sì. Maurizio Calzavare, siamo ormai amicissimi anche esternamente, non solamente internamente alla radio, ma insomma questo è il mio compagno che ogni giovedì sera nei live ci accompagna, mi accompagna ovviamente insomma in questa trasmissione che di solito facciamo ascoltare sempre qualcosa dal vivo, appunto anche musicalmente parlando. Questa è una serata un po' particolare, ma ne parleremo tra qualche istante. Prima, come di consueto, i nostri dati tecnici, ovvero la nostra radio, dicevo, Blu Radio Veneto. Questa è la fascia oraria chiamata Blu Radio Sera e poi ancora vi ricordo i nostri numeri telefonici che è lo 049 875 6423 per quanto riguarda quello in studio, mentre per quanto riguarda i vostri sms vi ricordo è il 346 23 20 033, il nostro sito www.bluradioveneto.it e poi le nostre pagine Facebook semplicemente Blu Radio Veneto, l'altro invece è Blu Radio Veneto Rock Wave, gestito dal nostro Alberto Prisco che è il direttore artistico. Allora, questa sera è una serata, dicevo, particolarissima, sono molto emozionato, ma sono molto fiero, felice, orgoglioso di presentare un cantante che, se mi passi l'espressione Gianluca, è veramente da ammirare per la forza che ha in quello che sta facendo. Ciao Gianluca e benvenuto. Ciao, buonasera a tutti voi ovviamente e gli ascoltatori. Gianluca Fantelli ovviamente ci viene a presentare questo disco che si chiama Sempre. Sì. Ma ci presenta anche la sua persona, il suo... Beh, adesso tu hai detto da ammirare, magari anche solo esteticamente. Senso, sì. non bisogna porsi limiti. No. Per fare una battuta, certo. E per far capire anche che non bisogna essere troppo seri, nel senso che la vita è fatta soprattutto... Deve essere fatto soprattutto in momenti allegri, certo. Felici, e quindi cosa c'è di meglio di passare una serata con degli amici a parlare, magari ridere, scherzare. E ascoltare la tua musica, insomma. Ma quello meglio ancora. Perché la musica è sempre un momento allegro, Gianluca, la musica, assolutamente. Beh, è un momento vivo. Beh, è un momento indubbiamente. Vivo. Indubbiamente. Poi la musica può essere allegra, triste. Ma l'importante è che dia emozioni. Ecco, esatto, questo è fondamentale. Quindi, che dia feeling, che dia emozioni, sì, che sì, dia sentimenti. Che trasmetta qualcosa. Esattamente. Beh, tu hai trasmesso molto in questo disco. È il terzo disco tuo praticamente, il disco più completo, il disco più da band. Più maturo. Lo definirei, perché diciamo i dischi precedenti, al di là che sono stati fatti con altri collaboratori validi, ma... adesso direi che abbiamo raggiunto una completezza di ruoli e una maturità artistica da professionisti, certo, quali certo. Poi siamo. E chiaramente poi Alberto che ti cura ha un sacco di ruoli in questo disco, cioè curatore, e lo salutiamo Maurizio, dobbiamo ancora presentarlo. Dobbiamo ancora salutarlo, sì. Di famiglia è già venuto a trovarsi. Alberto Despini che poi tra l'altro è anche il produttore di questo disco, giusto Alberto? Ciao ragazzi, no, il produttore siamo io e Gianluca insieme, perché 50-50. 50-50, sì. Sì, anche per abbiamo voluto fare questo viaggio insieme. Quindi. Alberto Despini lo ricorderete, è già passato in questo emittente, è un grande autore, un grande cantautore, un simpaticissimo personaggio e un carissimo amico ovviamente. Adesso non esagero. Non esagero. Però assieme a lui c'è anche Serena, che al quale mando un abbraccio. Ciao Serena, benvenuta anche a te. Buonasera a tutti. E abbiamo anche la Sandra, giusto? Sì. Ciao. Ciao Sandra, benvenuta anche a te. Allora, siamo pieni di gente stasera. Sì, il gruppo composito. Per fare una band, Gianluca, per portare avanti un disco ci vuole il gruppo. E questo è un disco di gruppo. Sì, assolutamente. Questo è un disco fatto con amore. Mm. Col cuore, perché non basta essere bravi artisti, bisogna essere anche persone che hanno voglia di mettersi in gioco in un progetto come il mio, che è estremamente impegnativo ma anche estremamente ambizioso, e quindi chi partecipa non solo deve essere un bravo professionista, ma deve avere un'anima disposta a sposare questo progetto. Bene, perfetto. Alberto è sicuramente uno degli interpreti migliori e principali. Cosa hai scovato in Gianluca Alberto per poter mandare avanti questo progetto, visto che il terzo album, questo che stiamo presentando, sei uno dei fulcri del disco stesso? Allora, io sì, sono stato presentato a Gianluca da un'amica in comune, e l'ho visto a teatro nel 2009, mi sono proprio innamorato della sua persona dal punto di vista proprio spirituale, vorrei sottolineare. Beh, non so, già alcuni stavano ridendo, però sì, spiritualmente parlando. E quindi insomma abbiamo fatto questo patto, perché è stato proprio un patto d'amicizia, sia musicale che personale anche, credo di poter dire, e lui mi ha affidato questa parte grossa e profonda, e allo stesso tempo anche lui comunque dà l'opportunità a me di partecipare scrivendo musiche e qualche testo, quindi nel senso non è che mi ha detto fai solo quello, quindi c'è un'interazione perfetta, positiva e sì, perfetta. Ecco. Poi la cosa bella, scusa, dimmi. Se ti interrompo, la cosa bella è che molte volte le cose succedono proprio, no? E come nella musica, nella vita, come nelle parole, a volte ti capita proprio che parlando viene fuori una canzone, lui mi dà un testo, io metto la musica, ci prestiamo le parole a vicenda, come si dice. Quindi, come dicevamo nella puntata a cui ho partecipato l'altra volta, non bisogna essere assolutamente gelosi delle proprie cose belle, se possono fare bene a qualcun altro. Certo, questa è una cosa positiva, non bisogna essere gelosi, non bisogna coltivare, come abbiamo detto l'altra volta, il proprio orticello. Esatto. Dare una mano a coltivare altri orti, e Gianluca è un altro orto sicuramente. E Gianluca ha un punto di riferimento, era Roberto Vecchioni, vero Gianluca? Beh, era, hai detto bene. È ancora lui. No, diciamo che io il primo disco che ho acquistato nella mia vita è stato Samarcanda nel 77, quindi è passato un po' di tempo. No, io come riferimento ho un po' tutti i cantautori storici. Certo. Vecchioni, perché ha rappresentato appunto questo episodio della mia vita, in cui mi piaceva molto come lavorava. Però De André, De Gregori, Ivan Graziani, De Spini, insomma, De Spini, anche lui. tutti quelli della vecchia scuola. Certo. Io sono cresciuto con loro. Anch'io, io sono leggermente più vecchio di te, ma anch'io sono. Ma leggermente. Leggermente. L'importante è che tu sia più vecchio. Sono perfettamente d'accordo. Sai che Maurizio assomiglia vagamente, dà l'idea di Vecchione un po'. Sì, è vero. Vero? Vero, hai ragione. Sì, qualcosa. Non ho la sua capacità, assolutamente. Anche se Samarcanda. A me piaceva anche il disco precedente, quello. C'era un disegno molto interessante. Samarcanda è il grande successo di Vecchioni, successo popolare. Aveva fatto delle cose molto interessanti, molto anche Luce San Siro, belle. Ti ricordi? Gianluca? Sì, lui ha fatto degli album prima, ad esempio, ricordo Fa tutti Ipertensione. Esatto, che era un bellissimo disco, anche dal punto di vista visivo, grafico, sì, molto sì, bello. Sì. Poi, vabbè, dopo ha trovato un filone, l'ha seguito come hanno fatto molti. Però lui effettivamente ha una produzione prima di Samarcanda molto molto autoriale. Sì, ma anche un po' leggerina, aspetto. Visto che scrive i pezzi per i Nuovi Angeli. Sì, Vecchioni sì, sì. Pareti, io ti ricordo. È vero, beh, Vecchioni ha scritto anche Babba Papà. Esatto, ha scritto anche quello. Sì. Scritto è informatissimo su Vecchioni. Informatissimo sui Barba Papà in realtà. Esatto. Anche. Va bene, io direi di fare un break, Gianluca. Perché no? Facciamo ascoltare subito qualcosa da questo Per Sempre e poi torneremo in studio. Ok. Cosa abbiamo scelto, Alberto? Lasciate la parola o facciamo annunciare a Gianluca? Lo dico io, dai. Andiamo con la traccia numero 5, che Ho bisogno di tempo. Ok. Ho bisogno di tempo, di tempo. E qualche volta, banalmente, di parlare col vento, di poter raccontare parole solo da liberare, senza un senso compiuto. O forse una richiesta d'aiuto. E ho bisogno di tempo, tempo. Non è solo paura di parlare da solo, che non c'è niente di peggio e a volte tutto ciò che mi resta è solo telefonare, ingannare il mio viaggio. Tempo, perché voglio cantare, per poter raccontare a qualcuno, diciamo meglio al mondo, e non posso aspettare di non riuscire a parlare, non lo potrei sopportare. Resto sveglio, devo sfogare il mio meglio e peggio sveglio. Ho chiesto alla vita di non mettersi in mezzo, nel frattempo lasciare al vento un segno. Sentirsi più vivo di chi muore dentro. Passato torno ogni volta tramonta mi lascia indietro. Come se i secondi contassero un anno intero, tolgo il freno, ma adesso ho bisogno di tempo se... Ho bisogno di tempo. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ci hai messo anche un po' di rap dentro. Eh sì, che è stata... Alberto che ti fa. No, è Ripley. No, questa è Ripley. L'idea è stata di Alberto, effettivamente. È stata un'idea geniale perché. Poi abbiamo avuto questi ragazzi anche dal vivo a volte, devo dire hanno un grande effetto sul pubblico. È quella band che ti dicevo prima, Gianluca, che ho visto quel video su YouTube, che è quella, quella ragazza, quei ragazzi che dicevi? Parlavamo, c'è cioè, il batterista dei Moda, la voce. Beh, sì, la band è una band assolutamente di grande livello. Sono gli stessi che hanno suonato nel disco, anzi nel disco ci sono anche degli ospiti in più, mi viene in mente Max Colonna, grandissimo chitarrista, però in questo disco suonano i fratelli di Lani, bassista e batterista, il batterista suona anche nei Modà. Poi abbiamo avuto Drigo e Cesare di Negrita in concerto con noi e in questo disco ci sono due live, in uno di questi suonano anche loro, quindi cioè nostra band di professionisti. Non... indubbiamente. Certo. E c'è una colorazione, Gianluca, mi pare molto black nei cori, non so se sei d'accordo anche te Alberto, molto black, volutamente. Beh, avete scelto voi per farlo black. Diciamo che abbiamo una corista che è Anna Stella Camponeale, che ha una bellissima che voce. Ha una voce veramente molto intensa, molto bella, molto... graffiante, mm-hmm. incisiva, con grande personalità, quindi si sente, cioè non è una codista che passa inosservata. Certo, certo, certo, indubbiamente. Dicevi dell'episodio del rapper, Alberto, mentre il pezzo andava. Sì, praticamente Ho bisogno di tempo era un brano che era stato strutturato in modo molto diverso, differente, e se uno ha assistito alla performance del 20 dicembre 2010 all'Europa Auditorium ha sentito che era proprio stato strutturato diversamente. E poi abbiamo voluto cercare assieme a Marco, che anche lui mi ha detto dobbiamo cercare un... Che è l'arrangiatore principe del disco, esatto, dobbiamo sottolineare. Esatto. E dobbiamo cercare un chorus, insomma un ritornello un po' più si incastri carico, al più, discorso del testo un po' più sì, un po' più incisivo. E quindi ci è venuto fuori una sera mi è venuto fuori questo ritornello, se ci fermasse il tempo, così l'ho mandato a Marco, sì, mi piace, lo facciamo, via dicendo. Poi mancava ancora qualcosa, allora cosa succede? Nel 2009 io ho partecipato a un concorso, ho incontrato Riccardo Riccio in arte Replay, uh-huh. e mi sono trovato molto bene, così proprio a pelle, anche se lui è molto giovane, però è veramente a livello spirituale è veramente carico e aperto a tutto, e è molto positivo soprattutto. Io ho detto prima o poi faremo qualcosa insieme, mi è venuto in mente per questo progetto, l'ho, certo, chiamato, certo, quasi dopo due anni, uh-huh. che avevo ancora il cellulare, ha detto assolutamente sì, ci siamo sentiti tramite mail, ha fatto questo intervento. Perfetto, sì, perfetto. E ne è uscito comunque una canzone, un brano splendido, insomma. Molto energico, molto accattivante anche. Sì, sarebbe quasi un singolo anche. Sì, ma in questo disco ci sono diversi brani che si presterebbero a essere singoli. Era anche la nostra intenzione, il nostro, certo, obiettivo, quindi direi che l'abbiamo centrato. Infatti. No, io la prima volta che, cioè quando me l'ha dato Alberto questo disco, perché è stato lui, Alberto Despini, che mi ha dato questo disco, io l'ho ascoltato, ma cavolo che bello che hai fatto veramente, come dicevo prima, un gran bel disco. Beh, io... È un frutto di un lavoro abbiamo durissimo. Fatto, perché sì, beh, certo, io amo molto parlare a plurale, cioè il progetto non è il mio ma è il nostro, è mio, di Alberto e di chi lavora per questo progetto. Il disco è il nostro disco, i concerti sono i nostri concerti, il tour è il nostro tour, insomma. C'è ancora perché il tour? Io da solo no, il tour è finito il 17 ottobre, con un concerto splendido a Budrio, a casa nostra, perché ci sembrava giusto chiudere lì in un teatro meraviglioso, perché è proprio un teatro storico ed era esaudito, quindi veramente un concerto straordinario. No, questo disco, come dicevo prima, è stato fatto con amore, certo. Io ho scritto le canzoni, ma senza quelli che hanno lavorato a questo disco io non avrei, certo, potuto, certo, fare nulla. Giusto, giusto. Ci hai messo molto a scrivere queste canzoni? Beh, le canzoni Alberto lo sa, perché le abbiamo fatte insieme. Ci sono canzoni che richiedono un tempo breve e canzoni che richiedono un tempo molto lungo. Noi, no, ma io scusami se ti interrompo Gianluca, io intendevo come testi, cioè... Sì, sì, sì, esattamente. Ci sono canzoni che nascono in un quarto d'ora e canzoni che richiedono una ricerca più approfondita. Ad esempio, Sarò sempre con te, ho impiegato quasi un anno a scriverlo. Quindi è un discorso che, se tu vuoi che le parole si incastrino in un certo modo, non puoi tirarle via. Questo non significa che una canzone scritta in un quarto d'ora sia tirata via, però Sarò sempre con te, essendo, poi dopo la sentiremo, sì, essendo dedicata a mia figlia, come dire, aveva per me un valore maggiore, speciale, e quindi ho pesato ogni parola con bilancino. Quindi è uscita solo quando era perfetta. È uscita solo quando era perfetta. Chiaro, sì, chiaro. In realtà ho scritto in un quarto d'ora una strofa e di tornello, ma tutto il resto ho messo 10 mesi a scrivere. E poi racconto questo aneddoto. L'ho finita in Sicilia, sono andato 2 settimane in ritiro apposta per finire il disco e poi per scrivere il mio libro e per ultimare delle parti, e io sono riuscito a trovare la spiritualità giusta per le parole perfette per questa canzone. Benissimo. Io ti porto già dei saluti che sì, ti stanno ascoltando. Allora c'è la Miria che ti sta ascoltando. Ciao, e ti saluta Miria, tutti. Ciao. C'è la Patrizia Scanferla, faccio, ci sono 2 Patrizie, allora dobbiamo dire chi cognome. Ah, perfetto. Ciao Patrizia Scanferla. Che è una cantante, tra l'altro. Ah, bene. Quindi ti sta ascoltando e sta preparandosi anche lei, perché domani sera c'è una bella serata, mi diceva. Bene. E poi c'è anche la Patrizia Galletta. Bene, Patrizia Galletta, ciao. ti sta ascoltando. Bene, facciamo un altro break con un'altra canzone e poi parliamo del libro e anche di te, se vuoi. Assolutamente. Allora andiamo con Come se. È quella famosa, giusto, canzone che c'è nella presentazione, nel video, come, esatto, sì, quella sì. È pazzesco quel video, guarda, ogni tanto io lo metto, lo posto anche da me su Facebook. Mi piace un sacco, sia per questa presentazione, bene, della band, e poi anche per la canzone in sé, insomma. Sì, la canzone secondo me è un pezzo importante, secondo noi è il brano un po' più radiofonico, certo, e adesso lo sentiamo e magari giudicate voi. Come se, Gianluca Fantelli. Come se ci fosse un angolo di cielo, sottile come un velo. Non mi importasse niente e fossi indifferente. Come se senza ascoltare. Come se credessi veramente di essere importante. Come se dammi, dammi quello che non c'è. Dimmi, dimmi quello che non è. Portami vicino a una salita e poi dammi la tua vita. Per mano, come se tornassi lentamente in mezzo a tutta quella gente. Come se senza guardare. Come se credessi veramente di non vedere niente. Come se dammi, dammi quello che non c'è. Dimmi, dimmi quello che non è. Portami vicino a una salita e poi dammi la tua vita. Come se dammi, dammi quello che non c'è. Dimmi, dimmi quello che non è. Portami davanti a una salita, ma ridammi la mia vita. E poi impari a fingere, a raccontare storie comode, a sperimentare umide idee. Rimane poi la noia, rimane la tua voglia, rimangono i pensieri, quelli liberi, quelli veri. We'll be right back. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Vi ricordo sempre quindi Blu Radio Veneto, questa fascia oraria chiamata Blu Radio Sera, dalle 21 alle 22.30 il giovedì con Agostino Spalore, cioè il sottoscritto, e con Maurizio Calzavara. Le nostre frequenze, che forse magari qualche volta mi dimentico, sono 88.700 e 94.600 MHz in modulazione di frequenza. Vi ricordo ancora i nostri numeri telefonici in studio: 049 875 6423. Il vostro SMS invece, se volete mandarcelo, lo mandate al 346 23 20 033. Abbiamo in studio Gianluca Fantelli, che sta presentando questo disco splendido che si chiama Sempre. Sì, io volevo anche dire, visto, approfitto che tu hai detto i numeri di telefono, se qualcuno vuole intervenire, certo, direttamente, non so se si può certo, fare certo anche una diretta, certo, mandare SMS, domande, io rispondo a tutto, anche perché su di me sono molto preparato. Poi se per caso nelle domande ci sono anche già le risposte nei messaggi, meglio che facciamo prima. Cosa ti danno le tre opzioni? Esatto. Una. No, davvero. Chiamate, scrivete, siamo qua. Siamo amici. Certo, nelle tue, io ho letto qualche tua dichiarazione, hai detto, hai ribadito che questo testo disco è un tuo figlio. È una bella cosa questa. Sì, è un nostro figlio, sempre per un concetto pluralistico, perché da soli non si può fare nulla, ma questo vale nel lavoro, nella vita, la solitudine non paga mai, e da soli non si produce mai nulla di positivo, noi abbiamo bisogno degli altri, degli altri giusti, ovviamente. Certo, degli altri giusti. Non tutte le persone possono essere giuste, ma non vanno rispettate ugualmente, però bisogna farsi aiutare dagli altri. Indubbiamente, questa è una cosa molto bella, bisogna farsi aiutare, e aiutandosi si può portare, come abbiamo detto precedentemente, a un grande progetto come il progetto di questo disco. Assolutamente sì. Progetto curato da tante persone, abbiamo già citato, però io voglio ritornare a Marco. Che importanza ha avuto Marco nel... Adesso, tu sei qua presente, ma Marco non c'è, stasera ci sentirà, ci sente sicuramente per via internet. Che importanza ha avuto per dare la colorazione, l'arrangiamento al disco, Alberto? Poi parliamo anche con Gianluca. Certo, allora lui chiaramente è forte di grosse esperienze che ha avuto e sta avendo, diciamo, dal punto di vista musicale, e quindi visto che suona nella band di Tozzi . E poi ha suonato con molte altre persone, tra cui citiamo Neck, che è quello diciamo un po' più conosciuto. Il disco nuovo tra poco esce, esatto. E per cui insomma già l'esperienza in più, posso dire che ha molto gusto, molto, perché abbiamo chiaramente scelto di fare questa strada di utilizzare il pop rock per Gianluca, sì. Gianluca, perché chiaramente in Italia è molto comunicativo come genere musicale, inoltre Gianluca lo è di suo, quindi diciamo che questa unione è stata voluta anche per questo motivo, e per cui Marco diciamo che è uno dei più preparati da questo punto di vista, e quindi abbiamo scelto, insomma è chiaro che lui ha sempre conferito con noi, però ci ha dato una grossa mano per rendere tutto un po' più ritmato, capito? Perché è chiaro che quando scrivi delle canzoni molte volte alla melodia ce l'hai già, è bellissima, però manca quel groove particolare, e lui sicuramente ce l'ha addosso questo, quindi non possiamo, noi abbiamo sposato la, come si dice, le sue idee, quello che poi magari tu hai già dentro, poi una certa unione, una certa conoscenza, una certa amicizia fa venire fuori quello che magari hai già, però lui sa come spiegartelo a livello musicale, no? Certamente, quindi è riuscito a accogliere da Gianluca i momenti più significativi lui di ogni brano e poi svilupparlo grazie anche con la tua collaborazione. È stato un lavoro, come ha detto Gianluca, ripetuto, sì, e dobbiamo ripetere, un lavoro di gruppo, certo. Non è un lavoro di Gianluca Fantelli, è un lavoro di tutti assieme. Certo, poi la cosa bella di Gianluca è che vedi che i brani funzionano già, perché se tu in un brano tipo Sarò Sempre Con Te, che dopo ascolteremo, che hai tante parole, in un brano con tante parole, se non ti piace, dopo la seconda strofa hai già spento. Questo è vero. Invece quello ha veramente molte parole, ma sono esattamente, è come se dovesse uscire, cioè doveva uscire così. Quello certo. Tu dici, poteva essere solo così. Infatti è proprio incastrato perfettamente, meccanicamente, ritmicamente, e ci sta tutto. E la cosa ancora più bella è che chiunque si può rivedere in questo testo, in questi significati, perché lui l'ha scritta per sua figlia, certo, però c'è chi si rivede il padre, ci rivede tantissime cose, tantissime esperienze che sono state vissute. Quindi quando trovi questo a livello di comunicazione sei arrivati, esattamente, mai arrivare, perché no, devi sempre crescere. Gianluca ha sempre detto che bisogna sempre andare avanti, sempre, e lui avanti. È riuscito a superare un gravissimo handicap. L'ha superato con la musica, dando forza alla musica, vero Gianluca? Ma sì, io non lo definirei un handicap, intanto chiamiamolo col suo nome. Io La SLA è la sclerosi laterale amiotrofica, è una malattia neuromuscolare progressiva, quindi ti toglie col tempo l'uso di tutta la muscolatura volontaria ed è incurabile. Detto in poche parole, in soldoni. Ho ristretto molto la cosa, ma il punto è questo, il punto è che tutte le persone nel loro quotidiano hanno delle problematiche, certo, e ognuno vive la sua come se fosse la più importante del mondo. Quindi non è una questione di avere una malattia incurabile o di avere un'unghia incarnita o di aver perso il taxi o aver finito il gel per i capelli. Ognuno ha la sua problematica che è enorme e che magari non riesce a superare. Allora, al di là di quale sia la problematica, io spero di poter trasmettere che la problematica si può superare o quantomeno affrontare. Affrontare come? Vivendo. Esatto, perché, vivendo. Perché è inutile abbattersi, chiudersi in casa, non affrontare la vita va affrontata, va vissuta, perché è questa è la nostra vita, non ne abbiamo un'altra, e quindi non va sprecata in nessun modo. Anche però all'inizio però tu avevi questo discorso, poi che hai superato e dici no, perché devo stare qua dentro? Sì, ma è ovvio che ogni cosa richiede dei tempi. Io ho impiegato 2 anni a metabolizzare cosa di questo tipo. Quando ti sei accorto di avere la SLA? Beh, mi sono accorto che avevo qualcosa che non andava quando ho iniziato a non riuscire a girare una chiave nella serratura, ma ovviamente pensavo a un problema ortopedico, infiammatorio. Certo. Mai avrei pensato alla SLA, che non sapevo nemmeno cosa fosse, come giusto che sia, perché io oggi so cos'è la SLA, ma non so di tantissime patologie altrettanto terribili, altrettanto incurabili, così come non so di problematiche legate all'infanzia, ad esempio, che esistono in tutto il mondo e purtroppo non si può fare tutto per tutti, ognuno dovrebbe fare qualcosa per qualcuno, allora vivremmo tutti molto meglio. Però nel momento in cui capisci che la tua vita in qualche modo ha un termine, allora è lì che assumi una consapevolezza diversa di come va affrontata, perché tutti noi sappiamo, lo diciamo spesso, no? Ricordati che devi morire, no? È questa capacità dei Troisi in un famoso film, e tutti lo sappiamo, ma nessuno ne è realmente consapevole, e quindi non riusciamo, comunque non molti lo sono, e quindi non riusciamo a vivere la vita appieno come dovremmo. e rimandiamo a domani, ci soffermiamo sul passato, soprattutto pensiamo troppo al futuro e ci dimentichiamo che il presente è la parte di vita che conta di più. Certo. Ricordiamo che ci sono dei personaggi che sono stati colpiti dalla SLA, come, sì, come per esempio c'è il bassista dei Toto, Mike Porcaro, sì, David Niven, Mao Zedong, se vogliamo stare nel recente e da noi citiamo Stefano Borgonovo. Ah, sì, giusto. Che saluto, se per caso ci sta ascoltando, perché è un amico, è un amico e tra l'altro è citato abbondantemente nel mio libro, magari dopo ne parleremo, sì. Oppure possiamo ricordare altri calciatori, Gianluca Signorini, insomma è una patologia che colpisce molto il mondo del calcio, e il mondo del calcio finalmente sta facendo qualcosa per la SLA, per la ricerca. Certo, certo, anche grazie a Stefano. Anche grazie a Stefano, ma anche ad esempio grazie a Massimo Mauro e a Gianluca Vialli, certo, che hanno una fondazione che peraltro appoggia il nostro progetto. Noi abbiamo parlato con Massimo Mauro non più tardi di 10 giorni fa, e lui è con noi e questo ci conforta molto. E magari ci sta ascoltando anche lui, lo so. Speriamo. Anche Gianluca salutiamo. Vialli mi dice. Gianluca Vialli, viva l'onda, è più difficile. Ma in streaming ci potrebbe sentire. Esattamente. Facciamo un altro break e poi parliamo ancora di te, del libro. Certo. Va bene. Cosa ci facciamo? Beh, adesso direi che è il momento di un quarto di secolo. Il duetto, il duetto con Alberto. Il duetto con Alberto, molto bello. Ok, ok. Un quarto di secolo, quanto tempo passato a guardare le immagini di un destino appena accennato. Devo vederti nascere, se solo lo avessi saputo. Potevo vederti crescere, ma di certo non avrei capito. Così sei arrivata da niente, a indicarmi una strada tortuosa, per cambiarmi il presente, evitarmi una vita noiosa. Anche se a volte cambi le stelle, tira fortissimo il vento, un fuoco infernale mi brucia la pelle e non può più essere spento. Tra poco arriverai, la porta è sempre aperta, e quando ci sarai ti parlerò di me. Tra poco arriverai, la porta è sempre aperta, quando mi vedrai, mi parlerai di te, di te. Un quarto di secolo, in fondo è davvero volato, non mi sembra nemmeno di averti aspettato, ma scendeva la neve, i suoi fiocchi brillanti accarezzandoti in lieve, tu preziosa come diamante, è bastato un istante per dividere tutti i pensieri, cancellare i peggiori e tenere soltanto i più veri. Hai trovato per terra chiavi di tutta una vita, scatenato una guerra, generato una storia infinita. Tra poco arriverai, la porta è sempre aperta, e quando ci sarai ti parlerò di me, e dopo te ne andrai, la porta è ancora aperta. poi resterai qui. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Salutiamo anche la Chiara, che, eh sì, che è come la radio importante, abbiamo importante. Anche la nostra fotografa, noi, ufficiale. Ciao Chiara, ufficiale. Benvenuta anche a te questa sera. Vi ricordo sempre i nostri numeri telefonici se volete fare qualche domanda al nostro ospite, cioè Gianluca Fantelli. Vi ricordo è il 346 23 20 033 per i vostri sms, mentre per quanto riguarda il telefono in studio 049 875 6423. Se avete qualche curiosità da chiedere, qualcosa da domandare a Gianluca, qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa, io sono qui a disposizione. Anche perché questo è un tema un po', sai, sconosciuto, come dicevi te. Sì, prima, magari a volte si ha qualche difficoltà ad affrontarlo, certo. Le persone fanno fatica a fare domande, però spero che magari al riparo dietro il telefono qualcuno abbia voglia di rompere il ghiaccio, certo. E fare qualche domanda. Certo, più che volentieri. Questo era il pezzo che apriva l'album Gianluca, ha scritto la musica l'ha scritta Alberto, e sì. Si incastrava perfettamente, Alberto che aveva un tono superiore, tu che quasi lo recitavi questo pezzo. Sì, questa è una canzone alla quale teniamo molto, come tutte, poi cioè le canzoni sono come piccole bambine che vanno coccolate, cresciute, e quando le canti, soprattutto davanti al pubblico, diventa un momento di condivisione totale, globale, e senti di poter trasmettere qualcosa agli altri. Certo, tu hai detto una cosa bella, la canzone li devi coccolare, devono essere coccolate. Sì, sì, perché io sono nato, io nacque, no, io avrei voluto fare l'autore, non il cantante. Non cantante. Però poi un amico mi ha detto, ma secondo me queste canzoni devi cantarle tu, perché solo tu puoi dare la giusta forza, la giusta energia a queste canzoni. Quel amico si chiama Enrico Salli, in arte Dengo, ed è la prima chitarra di Negrita, che io saluto. Ciao Enrico. E che anche lui è citato nel mio libro, che tra l'altro vorrei, io avrei piacere che Alberto leggesse una, diciamo, qualcosa parte del libro. Alberto, sì, il libro si intitola Senza respiro, perfetto, ed è edito da Minerva. Chi vuole può andare in libreria qualunque parte d'Italia, se non lo trova lo può ordinare. Senza respiro, un anno di incontri e di Minerva. E a me piacerebbe che Alberto leggesse la parte che riguarda Gianni Morandi, che io ho incontrato in maniera abbastanza così fortuita, ed è un episodio abbastanza così anche divertente. E a me piacerebbe, Gianluca, se dopo la lettura di Alberto del tuo libro tu ci cantassi un pochino di Sarò sempre con te dal vivo. Poi l'ascoltiamo anche dal disco. Proviamo. Ce la fai, questo regalo? Proviamo. Allora, Alberto, a te. Vai, Alberto. sì. Non so se ve l'ho mai detto, ma le tagliatelle che si mangiano ai laghetti del Biacchese sono persino più buone di quelle che faceva mia nonna tutte le domeniche quando ero piccolo. Lo deve pensare anche Gianni Morandi, dal momento che spesso lo si può trovare da quelle parti. Vado ai laghetti da un sacco di tempo, ma non avevo mai avuto il coraggio di parlare con Stefano, il proprietario del locale, nonché abilissimo manovratore del Celeste Group, quelli che ogni anno vanno alla maratona di New York per tentare di avvicinare Gianni. Ma adesso il vento è cambiato. Non voglio più permettermi di perdere nessuna occasione. Spiego in due parole a Stefano quello che mi è successo, che vorrei mandare del materiale a Gianni. Lui rimane un attimo interdetto, poi capisce che sto parlando di Morandi e mi fa: Gianni? Morandi? Ma guarda che sta arrivando! E se vuoi te lo presento subito. Improvvisamente mi assale il panico. Non sono pronto per incontrare un personaggio di quel livello nella pausa pranzo dell'ufficio. Spiego a Stefano che vorrei prima un approccio un po' più soft, magari attraverso la mia solita mail di contatto. Lui capisce e mi invita a mandargli la mail, così provvederà a inoltrargliela. Gianni Morandi arriva proprio mentre noi stiamo per uscire. Nel giro di pochi minuti la mail arriva nella casella di posta di Stefano, che mi conferma la ricezione. Speriamo che vada meglio delle altre volte. Nonostante le ultime risposte, e soprattutto le non risposte, mantengo una buona dose di ottimismo. Sto verificando le variazioni dei tassi dei mutui quando mi suona il cellulare. Senza staccare gli occhi dal video, mi porto il telefono all'orecchio ed emetto un «Pronto?» assolutamente dozzinale. «Gianluca, sono Gianni Morandi!» La mia faccia deve essere veramente molto espressiva, a giudicare da come mi guarda il cliente che ho davanti, che forse pensa che gli abbia trovato un tasso eccezionale. Chi? Veramente? Ma dai, Gianni! Non riesco a capacitarmi di essere al telefono proprio con lui. Stefano mi ha fatto leggere la tua lettera. Mandami le tue cose. Ti prometto che le ascolterò. La giornata diventa immediatamente radiosa, finalmente qualcosa si muove nella giusta direzione. Non mi serve molto tempo, il giorno dopo il CD è già in partenza, con all'interno il provino di Vuoi ballare, il pezzo che io e Rocco abbiamo scritto appositamente per Gianni. Adoro le persone che mantengono le promesse, e quando dopo meno di una settimana mi squilla il telefono, la voce di Gianni Morandi riempie di gioia i miei padiglioni auricolari. Ho ascoltato i tuoi pezzi, sono molto belli, ma alcuni eccessivamente personali. Invece Vuoi ballare è molto interessante, lo tengo. Non ti dico che lo incido, perché questo è un pessimo periodo per la discografia. Io stesso sono uscito con un CD doppio, con brani vecchi e un solo inedito. Non posso garantirti nulla, però lo farò ascoltare anche ai miei collaboratori. Non mi sembra vero, mi verrebbe da dire, che sarebbe il momento giusto per toccare il classico cielo con un dito. Un grande come Gianni Morandi, che mi dice che tiene una mia canzone. Bellissimo! Però, cosa significa? La tiene. E cosa vuol dire? Onestamente non lo so. Probabilmente la terrà in un cassetto per tutta la vita, ma per adesso mi basta. Mi serviva questo piccolo grande successo personale per convincermi che sono sulla strada giusta. Bellissimo, è stato bellissimo. Bellissimo. Io sorrido perché ho fatto, non so, uno scherzo e avevo scommesso con Alberto che riuscivo a fargli dire una parolaccia in diretta qui, che so che non è bello, e allora gli ho fatto leggere un brano dove c'è una parolaccia, ma lui è stato attento e l'ha saltata. È stato bravo. No, l'ho saltato, l'ho cambiato. È carità. Ah, ecco perché ridevi adesso. Sì, sì, aspettavo il momento, ma invece, vabbè dai, perché stavolta allora ci fai 30 secondi e poi ci ascoltiamo un'altra canzone. Proviamo, dai. Allora, questa è un'anticipazione di quello che poi sarà la canzone che ci saluteremo, e sarò sempre con te, Gianluca Fantelli. Ecco, bello senza questa musica che c'era sotto. Nelle notti d'inverno, quando il freddo sarà più deciso e ti coprirai meglio, appoggiandoti sopra un sorriso, con quell'aria tranquilla, che soltanto tu sai respirare, con quel viso disteso, che da sempre hai saputo mostrare. Sentirai quel calore che credevi di avere perduto, tra le foglie ingiallite, tra le cose che hai sempre saputo, ma volevi cambiare. Con i sogni e con le parole, e sarai più serena, potrai ancora splendere in sonno. Io sarò sempre, sarò sempre con te, sarò sempre, sarò sempre con te, sarò sempre, sarò sempre con te, sarò sempre, sarò sempre con te. Sarai molto più grande, non soltanto per gli anni passati. Sarò sempre con te. Bellissima questa canzone. Grazie. Mi è piaciuta subito, te lo confesso. Allora vuol dire che i 10 mesi spesi per scriverla sono stati ben spesi. Questa è una canzone che ha un po' spopolato anche nelle televisioni. Sei stato da Bonoli, sì, con Senso della Vita. Siamo stati, io ho detto, a Senso della Vita Pasqua scorsa, davanti a 3 milioni di telespettatori, e abbiamo fatto dal vivo questa canzone. Sì, poi sono stato alla Vita in Diretta, sono stato a Conti Damana di Vita. Sei stato recentemente? Sì, Damana andrei a settembre. Sì, l'ho vista l'intervista. No, qualcosa di buono abbiamo combinato, ma abbiamo ancora della strada da fare. Ma è lunghissima la strada, non ti preoccupare. Io ho visto in quella intervista, così mi collego, diversi tuoi amici che ti stanno vicino. È bellissimo questo, avere una striglia così di... Sì, no, è un discorso che facevo prima, certo, anche con Maurizio. Non si può fare nulla da soli. Tuttavia... bisogna accettare l'aiuto da parte di chi vuole l'altro. Chi non vuole l'altro non significa che sia cattivo, significa semplicemente che deve stare per conto suo. Però chi è disponibile a darti un aiuto col cuore e con amore, ben accetto assolutamente. Ma è una selezione naturale che si fa. Quindi io sono perfettamente consapevole che le persone che ho intorno sono persone che mi amano. Certo. Beh sì, lì nel video, cioè nell'intervista si è visto, che comunque la potete trovare tranquillamente su YouTube, se qualcuno vuole vedere. Sì, assolutamente sì, certo. Oppure andare sul mio sito, dove ci sono tutti i video. Il mio sito è www.iovivo.io senza accento sulla o.it. Per risparmiare. Sì. C'è grossa crisi. ce n'è tanta, Alberto, di crisi. Allora, ci siamo ascoltato un frammento di quella canzone. Sì. Mi collego alla canzone che proponiamo adesso. Sei un grande, sì. No, Agostino, sei un grande. Bravo, dai, dai, bravo. Non so quanto ci hai pensato a sta cosa. Grazie, Alberto. Sì, comunque, adesso è il momento di frammenti. Io approfitto su questo mano per salutare un altro amico, Gianluca Nalli. Ciao Gianluca! Che ha scritto la musica di questa canzone e che è anche coautore del testo. Frammenti. Ho lasciato che cadessero brandelli di coraggio, senza nemmeno guardare, per non dover ricordare. Ho scordato un tuo disegno in una scatola d'argento, chiusa a chiave per paura. divedeva il mio risveglio. Osservato nei miei labbra trattenendo verità, ingoiate come sassi ad appesantirmi il cuore. Ho spiegato forte gli occhi cancellando la tua immagine per poi perderla piangendo, fantumatemi le lacrime. Ancora non ho riesco a fare meno di te, a vivere sereno. Ancora non ho riesco a fare a vivere di me. E ho perduto il mio dolore in un attimo di stato, camminando nel passato in un vecchio labirinto. Ho lasciato che i miei passi mi portassero lontano, dove nemmeno il vento fa arrivare la tua voce. Eppure non riesco a fare meno di te, a vivere sereno. Ancora non riesco a fare meno di te, a vivere di meno. Ancora non riesco a fare meno di te, a vivere sereno. Ancora non riesco a fare meno di te, a vivere di meno. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Maurizio, non so se hai notato, mentre Gianluca cantava la canzone di Sarò Sempre Con Te, c'era un corista che parla poco stasera. Ha fatto il controcanto, chiaramente c'era. Era la Serena. Esattamente. Vai davanti al microfono, Serena. Ero nascosta, sono apparsa nel momento del bisogno. Il momento, il flash, ma si stava benissimo. Serena, scusa, chi sei? È la corista, no? Cognome? Zaniboni. Bolognese. È un po' bolognese. È un po' bolognese. Un pochettino. Zaniboni. È quella che accompagna Alberto Despini, giusto? Musicalmente parlando, intendo, eh. Ah, sì, sempre musicalmente parlando. No, io sono un po' geloso. Ah, sì? Sì. Infatti, diciamo che da poco è anche nella band di Gianluca, sempre che ci dà una grossa mano sui cori. Quindi corista, ha accettato di fare questo cammino. Sì. Beh, mi sembra anche giusto, insomma. Poi la band che ha lui è veramente eccezionale. Una band forte, Gianluca. Quando comincia a pompare, quando il batterista comincia a pompare, cosa succede? Quello succede? È un motore. Esattamente. C'è Claudio Di Lani, che lo ribadisco, suona in Modà, è stato a Sanremo. Sì, appunto. Quindi voglio dire, è un personaggio... Però è uno di noi. È uno di voi, è quello importante. Non importa che sia stato a Sanremo, non importa che sia di Modà, non importa che ha 50 settimane in classifica in Italia, non importa. Quello è fondamentale. Che la band deve essere così, la musica deve essere così. Non ci devono essere la star e le piccole cose di vicino. No, siamo tutti uguali. Sul palco siamo tutti uguali, secondo me. Assolutamente. Poi lui è rimasto, cioè Claudio è rimasto proprio. Così non diciamo che il successo ce l'ha adesso, e gli auguriamo che ne abbia altrettanto. Ci ha fatto tanta gavetta, però, per cui sì, sì, però no, diciamo che lui è rimasto così, quindi... Certo, certo, questa è una cosa fondamentale, bisogna ribadirle ste robe, perché musica si fa assieme, c'è poco da fare. Quando Gianluca scrive un pezzo, cioè, lo fa vedere a te, lo fa sentire a te, ma non è solo, non sei solo te, ci sono anche gli altri. Assolutamente, sì, sì, perché poi c'è sempre, diciamo anche in studio quando si registra, è bello che vedere che alcuni hanno delle idee, poi chiaramente vengono vagliate da Gianluca, però ognuno ci mette del proprio. Si sente che proprio un album fatto con amore, come dicevate prima. Certo. Cioè, si sente. Sì, io adesso chiaramente centro e quindi sembra da per partito preso, che però se voi lo fate sentire a qualcun altro, come avete sentito voi qua la prima sera, sono brani che arrivano direttamente. Sì, è vero. Poi Gianluca citava il discorso del cantautorale. Una volta, tanti anni fa, c'era il Folk Studio. Il Folk Studio si riunivano tutti quanti i cantautori. Non era solo Venditti o De Gregori, Locascio. Erano tutti quanti, era un unicum. E questo è importante, secondo me. Quello spirito deve essere, rimane nella tua musica. Ti ringrazio. Detto così. Gianluca, grazie per l'entusiasmo. Beh, insomma, è minimo. Sì, sì. Poi lui è un pozzo di conoscenza, sai. Lui... Vero, allora, Roberto, lo sai, è un po' timido, non si è ancora espresso, ma lo immagino. Poi magari privatamente gli puoi chiedere vita, morte e miracoli, certo, di qualsiasi artista, specialmente rock, quindi vedrai che ti racconta anche quando ha mangiato l'ultima volta. Ah, beh, sì. No, non parliamo di mangiare. No, perché... Anche le ex morose Gianluca che hai avuto da giovane, sì, lui praticamente sa che la sa. Dove sono andata, quindi. Beh, magari ne parliamo dopo. Ecco. Sì. No, parliamo del titolo del libro, Gianluca, importante. Sì. Beh, Senza respiro, un anno di incontri. Senza respiro ha un doppio senso, ovvero diciamo che la modalità in cui si legge questo libro, perché veramente si legge tutto d'un fiato, al tempo stesso è anche la modalità di vita di chi ha la SLA e comunque di chi credo ha una malattia incurabile. Cioè c'è questo senso di fretta, perché si ritiene di avere meno tempo di altri per poter fare le cose. In realtà c'è solo la giusta percezione del tempo che altri non hanno, mentre un anno di incontri è molto più semplice, nel senso che il libro racconta un anno di mia vita attraverso incontri che io ho fatto con persone anche di un certo spessore artistico. Certo, e poi con questa malattia tu hai ribadito: io il tempo non lo voglio buttare via, assolutamente, assolutamente, assolutamente. Devo viverlo immediatamente, sempre, anche l'unico piccolo istante, anche quello serve. Sì, non è un discorso di serve, cioè serve, è utile, è proprio, è no, va vissuto semplicemente, esatto. Non va buttato, non va sprecato. Il tempo è un dono prezioso, la vita è meravigliosa, va vissuta semplicemente, senza farsi ossessionare né dal passato che ormai è andato, né dal futuro, perché il futuro è una cosa che deve ancora venire. Quindi oggi, viviamo oggi senza farsi ossessionare da domani. Viviamo oggi, non diciamo ah vabbè questa cosa la farò domani, no, facciamola oggi. Poi domani faremo qualcos'altro. Giusto. Beh, insomma, credo sia anche l'idea di qualsiasi persona, non solamente chi soffre di SLA, di vivere in questo senso. No, è l'idea che dovrebbe avere qualsiasi persona. Dovrebbe, sì, giusto. Sì, assolutamente sì, certo. Almeno questo è il mio punto di vista. Certo. Io sono curioso, sai chi mi hanno definito il Marzullo di Blu Radio? Ah, che meraviglia! Tu sei molto orgoglioso. Sì, infatti, tra l'altro è stata una ragazza che vive in Emilia Romagna, la Maria Teresa Lonetti. Che esatto, sì, esatto, proprio l'ha definito in questa maniera. Il Marzullo di Blu Radio. Che è una rockettara, una ragazza che fa musica folk, condita dal rock. Viva Bologna, con un pezzo, sì, Viva Bologna, con un pezzo, ha ripreso un pezzo di Yo Mundi, l'ha rifatto in versione molto, non so, non posso citare un gruppo che voi amate, che conosce di Modena, City Ramblers, però in versione leggermente diversa, però un po' di folk che ci sta bene con il rock. E ha citato Marzullo alias Agostino. Perché io ho fatto questa stessa identica domanda, Gianluca, permettimela. Chi è Gianluca Fantelli? Gianluca Fantelli è Gianluca Fantelli. Bene, allora io devo andare via perché cioè, mi stanno aspettando fuori. No, ognuno deve scoprire se stesso, trovare se stesso. Non dobbiamo imitare gli altri, non dobbiamo inseguire obiettivi di chissà quale tipo per vivere bene. Se viviamo bene con noi stessi, non abbiamo bisogno di altro. Obiettivi, certo. Due dischi, hai due pezzi nuovi, mi pare. Stiamo lavorando a due brani nuovi. Uno doveva essere per Sanremo. Credo che a Sanremo non andremo. Poi, dato che noi comunque pubblicheremo questi due brani, poi il pubblico ci dirà se i pezzi di Sanremo erano più meritevoli. No, a parte gli scherzi, io sto lavorando un nuovo libro che uscirà presumibilmente a febbraio, e allegato a questo libro ci sarà un CD al quale stiamo lavorando con Alberto, Marco e i soliti della band, e contiamo appunto di inserire questi due brani nuovi insieme a qualcosa di vecchio. Credo che sarà un bel prodotto. Bene, e dove lo potremo trovare? In tutte le librerie d'Italia. Quindi c'è una bella distribuzione. E anche sì, vogliamo fare questa cosa anche per far sì che anche la nostra musica abbia una distribuzione su tutto il territorio. Quindi lo stesso disco si può trovare in tutto il territorio? No, il disco sarà insieme a no, no, il disco per esempio per sempre, cioè sempre. No, quindi sempre in questo momento è reperibile, sono i concerti, anzi, è in via di esaurimento. Sono rimaste una settantina di copie. E non lo ristamperemo. Ah, quindi, ho capito. Esatto. No, nel senso che se una casa discografica si fa avanti, noi abbiamo il master, abbiamo tutto, non c'è problema, ma noi adesso, cioè noi puntiamo sempre al nuovo, non vogliamo fossilizzarci su cose vecchie, andiamo avanti, chi vuole può farsi avanti per produrre il disco. Gianluca, quando fai i concerti, qualcosa di vecchio lo fai con la band? Assolutamente sì, però abbiamo trovato un'ottima dimensione con questo disco sempre, e a dire il vero facciamo 3-4 brani della vecchia produzione, perché hanno un significato, certo, particolare. Altrimenti noi proponiamo il nuovo, disco nuovo. Sì, assolutamente. Bene. Bene, facciamo un'altra, certo, pausa, che poi abbiamo gli ultimi minuti finali, sì, ma intanto perché sì, voglio far ascoltare il più possibile le tue canzoni, Gianluca. Ecco, questa canzone che va adesso si intitola Destini Incrociati, e secondo me è un emblema di com'è la vita in qualche modo, no? Ci sono episodi che a volte noi trascuriamo dalla nostra vita, che invece poi diventano determinanti, ma negativi, positivi, non importa. E a volte ci basta perdere un autobus o un treno, la nostra vita cambia completamente senza che noi lo sappiamo. E io questo brano vorrei dedicarlo a Sara, che è qua con me, perché rappresenta esattamente questo brano. Ok. Corrono, sono vite parallele, ma non si guardano, viaggiano su binari equidistanti, e non si vedono, ma poi si spostano quasi impercettibilmente, si sfiorano e poi si toccano, rimangono segnati e a volte cambiano. Sono i destini incrociati, respiri intagliati, parole che contano. Sono destini incrociati, a volte sbagliati, che poi si ricordano. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Aspettano, tardano un appuntamento e si confondono, scelgono strade piene di rimpianti e le accarezzano, ma poi camminano incrociandosi di strada. Non si salutano e non si fermano, hanno un senso definito, a volte anomalo. Sono i destini incrociati, momenti sbagliati che sembrano limpidi. Sono destini incrociati, respiri affannati che poi si riprendono. Pa, pa, pa, pa, la, pa, pa. Pa, pa, pa, pa, la, pa, pa. I destini a volte si passano accanto, rivolgendosi spesso uno sguardo soltanto. Sono i destini incrociati, respiri intagliati, parole che contano. Sono destini incrociati, a volte sbagliati, ma poi si riprendono. Pa, pa, pa, pa, la, pa, pa. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Blu Radio. Blu Radio. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Eccoci qua. Diciamo 30 secondi di una cosa musicale, poi dici la tua, Alberto. Vabbè. Mi è venuta in mente solo una cosa. Diciamo musicalmente una ballata pop molto vivace, molto sì, accattivante. Non è difficile, entra subito nel circolo. Cosa dici? Sì, infatti doveva essere proprio quello, un Britpop, una cosa melodica, comunque un po' ridondante, che ti rimane già nelle orecchie fin dall'inizio. Per cui se la musica entra bene, le parole altrettanto, perché non hai più, cioè l'orecchio in automatico non si sofferma più a capire le differenze. Se è una cosa che torna, le parole sono, è già la seconda cosa che ti entra in testa. Certo, e poi il discorso che volevi fare? No, questo non c'entrava assolutamente, una mazza. No, mazza si può dire. Perché mi stavo pensando a questa sigla che avete, no? Prima di partire, prima di iniziare così, e mi immaginavo proprio le persone che cantavano questo jingle in studio, e allora stavo pensando alle facce che potevano avere. Cioè, ah, perfetto. Sai che non lo so chi l'ha fatto, sai? L'ha fatta la Susi. No, invece io volevo dire che Destini Incrociati è stato il primo brano che abbiamo costruito insieme, io ho detto, Tanto è vero che il primo progetto insieme è stata una band acustica che si chiamava Destino Incrociato. Ah, vedi. E da lì è partito poi tutto il progetto che è sfociato nel nuovo disco e in quello che facciamo adesso. Che è meno acustico e un po' più elettrico. Ma molto di più. Molto, poi molto. Pensa che queste canzoni tipo Destini Incrociati così, noi le abbiamo fatte, sistemate, anche suonate così. Io e lui eravamo nell'osteria di Medicina, mentre tipo davanti a 20 persone che mangiavano. Mentre tra un boccone e l'altro io ci metterei questo, no, io ci metterei quello. Molto carino questo, molto gucciniano. È molto gucciniano, l'osteria delle dame. Ma tu vuoi l'osteria delle medicine, va bene lo stesso, esatto. Pubblicità anche all'osteria delle medicine, esatto. Sempre, da che banda è? Vicino vicino a Bologna. Vicino, sì, a Bologna, sì. Vicino a Bologna, esattamente. Dove abiti tu? Dove abiti te praticamente. Bologna, c'è poco da fare, abbiamo già parlato con te l'altra volta. Bologna, fa la via Emilia e West, c'è poco da fare. Quello dipende, parte ancora gli anni, fino agli anni 50, Guccini, l'America, e l'America viene fuori. Tu hai citato James Blunt, è inglese, però ha avuto un grande successo in America, quindi insomma siamo sì, sempre vero, là. Vero. Siamo sempre là. Cosa dici, Gianluca? Sono d'accordo. Era uscito un attimo, adesso torna. Sei tornato. Bene. Gianluca, quali sono i tuoi gusti musicali? Cioè, se tu devi acquistarti dei dischi, cosa ti conti? Guarda, cosa ti piace? Io sto ascoltando... A parte De Spini, sì, se l'ha citato, ma, l'ha citato. Però se uno vuole acquistare De Spini, non lo trova. L'ha citato, però non trovo più. Perché posso masterizzarlo ecco, a 2 euro. Mi do. No, a parte questo, sto ascoltando moltissimo l'ultimo disco dei Coldplay. Ah. È favoloso. Ti piace? Favoloso. Qualcuno l'ha giudicato un po' troppo leggero, anche se c'è la produzione di Brennino. Straordinario. Benissimo. È un disco pop. Pop. Straordinario. Pop. Straordinario. Loro hanno cambiato un po', sono andati verso il pop, però chiaramente. Beh, c'è anche Rihanna dentro. Con un arrangiamento così, diciamo che. Ma Brianino, ragazzi, dobbiamo sempre lavarci in piedi con Brianino. Brianino può fare di tutto, fa l'ambient, fa anche il pop, faceva all'epoca con i Doxy Music, quindi un personaggio straordinario. Poi quasi molti CD degli U2. Li ha prodotti lui, e Bowie. Non scordiamo David Bowie, la trilogia berlinese, ragazzi, insomma. Cosa straordinaria. Quindi ti piacciono molto i Coldplay? Sì, mi piacevano già, ma l'ultimo disco in particolare. Benissimo. E Alberto, anche tu hai citato all'epoca quando sei venuto i tuoi dischi preferiti, li hai cambiati adesso oppure no? In questo mese. No, guarda, io... Ecco, Agostino ha messo su proprio il singolo Paradise. Purtroppo c'è Rihanna anche. No, lei è l'esodoro. Sì, ma c'è anche Rihanna che suona quel play. Io, no, anche me sono... È una scelta un po' opinabile secondo me, però insomma sai... C'è niente. Ma guarda, i dischi preferiti sono sempre quelli. Potrei aggiungere i Simple Minds, che non avevo detto l'altra volta, che ci sono delle cose all'inizio di carriera, non fa cose meravigliose. Poi, se vi ricordate, c'è stato il periodo che facevano la guerra un po' tra lui e Bono Vox, che alcuni dicevano perché assomiglia più a me, più a Latte, sono tutti e due irlandesi, quindi come provenienza. Poi io sono sempre quelli. Il Coldplay, sposo l'idea di Gianluca. Sposi l'ultimo dei Coldplay anche te o i precedenti? A me piacciono tutti gli album, mi piacciono tutti, chiaramente non tutte le canzoni ma tutti gli album. Poi chiaramente qua sono un po' più maturi, hanno scelto questa strada per forse arrivare un po' di più nelle radio così, perché io e Serena siamo stati presenti al concerto di Heineken. E stranamente non c'era molta gente, sai, non per fare una brutta pubblicità, però c'era veramente poca gente. Ma cosa costava il biglietto? No, non costava tanto. Perché no, perché con la crisi che c'è, sai, uno ci pensa. Non è costato tanto, però stiamo parlando prima dell'uscita di questo. Per cui magari i ragazzi giovani, le nuove generazioni, seguono più questo tipo rispetto al rock dei precedenti, credo. Beh, l'esibizione che hanno fatto da Fiorello mi pareva molto interessante. Quei 5 minuti assolutamente dal vivo, perché Gianluca, la roba più importante è suonare dal vivo, c'è poco da fare. Sì, perché non serve fare... Quando te lo fanno fare, sì. Quando te lo fanno fare. No, io ho avuto insieme ai ragazzi della band un'esperienza straordinaria. Quest'anno abbiamo fatto tantissime date. Il contatto col pubblico è qualcosa che ti segna molto profondamente. E io onestamente, quando sono sul palco, mi dimentico di tutto il resto del mondo e finisce tutto. Io lì sono un super uomo, un supereroe immortale. Io mi sento immortale. Quando è la prossima volta che salirai sul palco? Non lo possiamo dire. In privato non lo poi possiamo me lo faccio dire. Non lo possiamo dire, ma abbiamo un'altra molto importante. Bene. Ci farete sapere prima, qualcosa. Prima di Natale. Ah, vabbè. Prima di Natale, va bene. Ci okay. farete sapere qualcosa. Sì. Gianluca, sono le 22:22, poi abbiamo lo spazio per la canzone Sarò sempre con te, che sarà sì. quella che chiude questa intervista. Beh, innanzitutto noi ti dobbiamo dire grazie di aver accettato l'invito. Beh, no, sono io che ringrazio voi. Poi adesso voi ringraziate me, poi andiamo avanti per i prossimi 8 minuti. A noi ha no. fatto molto piacere che tu sia venuto. Altrettanto a me. Poi Alberto è un amico, lo sa, ci conosciamo ormai da molto tempo. Però grazie, grazie, grazie, grazie. E Alberto è un amico che adesso deve pagare la cena. Ho detto Tommaso. Però vorrei concludere in questi pochi secondi dicendo una cosa importante che mi ha fatto venire in mente Gianluca prima, dicendo che si sentiva immortale. La prima sera che l'ho visto lui cantava, e la seconda sera eravamo già praticamente amici, l'ho accompagnato in un posto e mi disse: io la SLA e da quando sto così non me ne frega più nulla di nulla. Mi ricordo questa frase: non me ne frega più nulla di nulla, per non dire altre cose. E, diciamo, i limiti sono quelli che uno ha nella testa. Cioè, in quel momento la sua stessa gabbia, tra virgolette, è quello che l'ha fatto diventare immortale veramente. Ed ha iniziato a fare quello che sa fare. Certo, sì. Quindi, non esiste più una gabbia per lui. No, no, assolutamente. Volevo solo dire questa cosa: no. che i limiti sono veramente nella testa. Chiaro. Maurizio. Abbiamo finito, abbiamo purtroppo. Finito. C'è poco da fare. Belle cose finiscono dopo un'ora e mezza. Tuoi dati tecnici, Gianluca, cioè il disco, il sito. Volevo spiegare in questo senso. No, allora il disco è sempre, il libro è Senza respiro, edizione Minerva, il sito www.iovivoiovivosenzaaccento.it. Non è che devono scrivere senza accento. Esatto, perché qualcuno ha scritto proprio per esteso: io vivo e vivo senza accento. Però, no, io vivo e vivo. Quindi è un sito dove tu rispondi sempre a tutte le sollecitazioni che ti danno i tuoi. No, è proprio un sito, un blog dove io metto tutte le cose che faccio. Ho anche un profilo Facebook. Ecco. Chi vuole può trovarmi lì. Ho due pagine, una come Gianluca Fantelli e una d'artista, diciamo, come Infante. Quindi, che non abbiamo ancora chiesto. Chi vuole può. Sì, ma detto il perché di Infante, una cosa per abbreviativo del nome, del cognome. Sì, è molto banale. Esatto. Ma perché il mio cognome veniva storpiato continuamente: Fantinelli, Fontanelli, Elefantelli, cose allucinanti. Invece Fante. È semplice e immediato. È semplice, esatto. Va bene, io vi saluto, vi do un appuntamento non a giovedì prossimo. No, giovedì è festa dell'Immacolata, quindi una grande festa, però ci saremo io e te e Vannuccio con l'intervista a Arturo Stanteri venerdì. Arturo Stanteri, che era il musicista di Piero Lunaire, presenta un disco di Natale. 9 dicembre è una bella cosa. E invece per quanto riguarda il live del giovedì, vi do l'appuntamento a giovedì, quindi 15 dicembre, con Karen Ciaccia che arriva da Genova. È una cosa dobbiamo ricordare: il grande appuntamento natalizio che faremo tre ore piene. Di Natale, con carole natalizie, pezzi natalizi tradizionali, non Alberto, anche Gianluca. Se siete a casa, se volete sentire via internet, potete ascoltare il 22 giovedì, e ripetiamo quello che abbiamo fatto l'anno scorso, in pratica, insomma. Sì, ripetiamo con altre canzoni, tutto vero? Assolutamente al vivo, come stasera, tutto in diretta. Grazie ancora a te, Gianluca. Ci ascoltiamo questa splendida perla, come posso chiamarla. Grazie a voi, è una canzone veramente che va ascoltata. certo. Ascoltare. E noi l'ascolteremo e i tuoi fans l'ascolteranno. Grazie. Alberto, grazie di aver portato Gianluca qui. Grazie a voi. E di far parte di questa produzione, ovviamente. Un bacio... non è stato semplice, dice... perché ha fatto di tutto per portarci a Tome, però alla fine ogni tanto siamo arrivati. Mi perdo, ogni tanto mi perdo. Un abbraccio lo mando a Serena, grazie anche a te. Grazie a voi e ciao a tutti. E alla Sandra, ovviamente. Grazie. E grazie a Sandra anche per quello che fai. Credo sia doveroso, insomma. Giusto? Ok. Sì, sì, no, indubbiamente. Ciao a tutti, vi salutiamo con Gianluca Fantelli da questo sempre. Ci ascoltiamo la canzone, forse la più famosa, insomma, dell'intero disco. Si chiama Sarò sempre con te. Ciao ciao. Bye bye. Ciao. Ciao. D'inverno, quando il freddo sarà più deciso e ti coprirai meglio, appoggiandoti sopra un sorriso con quell'aria tranquilla che soltanto tu sai respirare con quel viso disteso che da sempre hai saputo mostrare. Sentirai quel calore che credevi di avere perduto tra le foglie ingiallite, tra le cose che hai sempre saputo ma volevi cambiare, con i sogni e con le parole, e sarai più serena, potrà ancora splendere il sole. Io sarò sempre con te. Sarò sempre con te, sarò sempre con te, sarò sempre. Sarai molto più grande, non soltanto per gli anni passati, sarai sempre più bella, non soltanto per gli occhi toccati. E potrai camminare con lo sguardo attento e sicuro di chi sa cosa cerca, di chi sa illuminare l'oscuro. E dovrai perdonare chi ti ha dato un grande dolore. Guarda dentro lo specchio e non farti tradire dal cuore. Tieni aperte le porte che non devi farti fregare, metti in tasca la rabbia e ritrova la forza di amare. Io sarò sempre con te, sarò sempre con te, sarò sempre con te. Sarò sempre, anche quando le stelle sembreranno un po' meno brillanti ed alcuni pensieri non saranno che stelle filanti, apri ancora il cassetto e rileggi le cose che ho scritto solo per ricordare per un attimo quello che ho detto. Io sarò sempre con te, sarò sempre con te, sarò sempre con te.